Italia in controluce. Italia in controluce, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi. Giuliano Pisapia, il sindaco di Milano, ha battuto Letizia Moratti con un largo margine di voti. Da dove partirà Expo 2015, cultura, ricerca, tecnologia, riqualificazione delle periferie? Paolo Piacenza ha intervistato Giuliano Pisapia. Cambia tutto a Milano perché c'è stata una partecipazione da parte dei cittadini a questa campagna elettorale, ma soprattutto alla capacità di impegnarsi per i problemi di Milano, ma per i problemi che possono andare dalle buche nelle strade al cambiamento totale della città, alla visione complessiva della città che non si vedeva da troppi anni, da almeno 20 anni. Questo è qualcosa che non sparisce da un giorno all'altro, è qualcosa che continuerà e che mi accompagnerà nei 5 anni in cui sarò sindaco di Milano e mi darà forza per andare avanti e fare quella trasformazione e quei cambiamenti che mi sono impegnato a fare. È stata una grande fiducia nella mia persona e sulla mia persona e di questo ringrazio tutto e tutti i milanesi e chi vive e lavora a Milano. Io ho voluto dire che sarò sindaco non di tutti i milanesi ma di tutta Milano, perché Milano è qualcosa che comprende anche i non milanesi che qua hanno trovato accoglienza, hanno trovato solidarietà e questa negli ultimi anni è mancata. Dovrà ritornare Milano una città inclusiva, una città accogliente, una città capace di dare sviluppo e soprattutto una capacità di dare lavoro ai giovani. Questo è un altro grande passo avanti rispetto a una politica che negli ultimi 5 anni era chiusa nell'ambito delle mura del centro. Io ho parlato molto di periferie e credo che questo sia stato un segnale importante per chi non andava a votare, per chi andava a votare tirandosi il naso, per chi aveva smesso di impegnarsi per la città e che invece in questa campagna elettorale ha ripreso a essere partecipe e a volere cambiare la città in prima persona e non delegando ad altri. 10 punti di distacco, c'è chi aveva detto che in questi 15 giorni la forbice si era abbassata, che la Moratti aveva cambiato il tono, lei si aspettava questo risultato in queste dimensioni? Io vorrei dire che da quando ho deciso di candidarmi c'è chi diceva che era un obiettivo impossibile, poi si sono resi conto che era possibile, poi è stato abbastanza chiaro che era probabile, poi altamente probabile. Mi sembra che questi 10 punti di distacco siano significativi del fatto che è cambiata Milano e che Milano ha voluto dare un segnale forte di cambiamento e di capacità di impegnarsi per la città. Questo è l'elemento che ha determinato i 10 punti di distacco, che sono non tanto importanti rispetto alla percentuale, che è sicuramente forte ma è inaspettata, specialmente da parte del centrodestra, ma perché sarà un rinnovato e darà un rinnovato impegno per i cambiamenti necessari dalla nostra città. Tante cose che non mi piacciono, soprattutto il degrado delle periferie, la mancanza di luoghi di cultura, l'insussistenza di luoghi di aggregazione per giovani e di luoghi dove gli anziani che troppo spesso vivono la solitudine possono trovarsi e ritrovare la gioia di stare insieme, fare comunità e anche quel senso di sicurezza che il sindaco ha il dovere di garantire a tutti. Roberto Basso è responsabile della campagna elettorale di Giuliano Pisapia, il guru che ha plasmato il candidato e alla fine l'ha portato alla vittoria. Allora, una lunga campagna elettorale che parte da settembre, ancora prima, insomma, con le primarie, e che arriva fino ad oggi. Quali sono stati gli ingredienti che hanno funzionato di più? Quali sono stati anche i meccanismi che si sono costruiti e determinati nelle fasi successive, perché probabilmente anche la progettazione è cambiata molto in corsa, da quello che si è capito. Ma diciamo, gli ingredienti fondamentali sono: uno, la durata. Questa campagna è partita molto presto, perché è partita in realtà a luglio del 2010 per le primarie, e questa durata ha consentito di costruire una solida reputazione del candidato. Il secondo ingrediente è l'autenticità, la definirei così, cioè il carattere che è stato percepito dagli elettori come assolutamente autentico del candidato. Il terzo ingrediente è assolutamente la fiducia che è nata radicata nell'elettorato e la passione che tanta gente ha messo in questa campagna elettorale al di là degli sforzi fatti dallo staff ufficiale. In queste ultime settimane la campagna ha subito una forte accelerazione, in realtà non c'è stato nessuno stravolgimento, anzi direi che siamo stati tutti quanti bravi a consolidare il lavoro fatto nei mesi precedenti, la continuità, la costanza e la coerenza della campagna con la natura, direi non l'immagine ma con l'identità del candidato, sono sicuramente tra gli elementi più forti da tenere in considerazione. E questo si è sposato, questa coerenza si è sposata anche con una viralità in parte spontanea che si è costruita nel tempo. Il popolo della rete non può essere condizionato, noi abbiamo cercato di collocarci là dove potevamo avere uno scambio vero, genuino, il candidato è una persona onesta che non ha cercato di fingere competenza sulla rete, Giuliano Pisapia ha capito una cosa fondamentale, che la rete è importante per ascoltare, ci ha chiesto di ascoltare, ci ha chiesto di farlo con lui e per lui e ha avuto la capacità poi di interagire con il popolo della rete. Il popolo della rete questo ha capito, lo ha capito e in modo assolutamente spontaneo ha viralizzato non solo quello che facevamo noi, ma soprattutto è diventato protagonista della comunicazione in rete, la creatività è esplosa e abbiamo avuto dei fenomeni assolutamente spontanei e fantastici. C'è un episodio che personalmente ricordi con particolare, come dire, come significativo, come un momento importante, anche emotivamente? Ma potrei dire le Moratti Quotes, cioè il fenomeno con il quale gli utenti di Twitter hanno inteso stigmatizzare le accuse di Letizia Moratti inventandosi colpe di Giuliano Pisapia. In realtà devo dire che la cosa che mi ha colpito maggiormente è stato scoprire come il team di Letizia Moratti stava rapidamente acquisendo fan su internet, e cioè facendo pubblicità in tutta Italia usando non l'immagine del candidato ma cagnolini, gattini, scarpe con i tacchi. Ecco, essere riuscito a scoprire questo con l'aiuto del popolo della rete, che poi ha trovato altre inserzioni, e con l'aiuto di altri che invece hanno scoperto degli script che stavano dietro altre pagine che incrementavano la capacità di produrre link alla pagina, beh, quello è stato un momento molto importante che mi ha fatto capire che ci trovavamo davanti alla strategia della finzione. Migliaia di volontari hanno sostenuto la campagna elettorale di Pisapia. Valentina Morelli ha in particolare coordinato alcuni degli eventi più importanti che si sono organizzati in questi mesi. Che campagna elettorale è stato? Quali sono stati gli ingredienti più funzionanti, più innovativi? Che cosa ha avuto anche, prima di tutto magari qual è il tuo ruolo, qual è stato il tuo ruolo, e poi dopo quali sono stati secondo te gli ingredienti che hanno funzionato di più? Allora, il mio ruolo nella campagna elettorale è stato quello di coordinare quelli che erano gli eventi della campagna, e poi e la cosa più bella per me è stato mettere in piedi i tre fantastici concerti che abbiamo avuto, il 10, il 13 e il 27 maggio. Gli ingredienti migliori di questa campagna, suona banale a dirlo, ma è l'umanità della gente che ha partecipato. Ogni giorno si presentavano in sede decine di persone che passavano a caso e dicevano io voglio aiutare, e non è che lo dicevano e poi non lo facevano, ma da quel momento diventavano ingredienti attivi della campagna di Giuliano Pisapia, e quindi secondo me la cosa che più ha funzionato è stata la viralità con cui si è diffusa la campagna tra la gente, e sempre a livello di viralità secondo me è stato utilissimo anche quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione, cioè i social network, internet hanno svolto un lavoro non dico fondamentale ma di sicuro una componente altissima del successo, è anche dovuta a quello. Ecco, sul territorio, visto che si parla di social network, c'è l'altro aspetto classico della campagna elettorale, soprattutto quando si parla di amministrative, che è quello del rapporto con il territorio. Allora, come si sono combinato il canale virtuale e il canale concreto del rapporto, della relazione col territorio, con il quartiere o anche la zona o anche le aree anche più limitate insomma della città? Sì, sono i due canali, cioè virtuale e territoriale concreto, andavano avanti in parallelo e ogni tanto si incrociavano, nel senso che c'erano degli eventi, delle iniziative che venivano lanciate sul network e senza che poi necessariamente fossero diffuse sul territorio, automaticamente poi si incastravano nel momento in cui si realizzavano. E altra cosa della gestione invece del territorio anche lì noi siamo arrivati a un certo punto, ad un mese della chiusura della campagna, dove ci siamo resi conto che c'era impossibile governare tutto quello che accadeva, perché erano talmente tante le cose che abbiamo smesso di aggiornare il famoso calendario degli eventi quando ci siamo resi conto che, pur mettendo tutto quello che noi sapevamo, in realtà ce n'erano altri 20 che non sapevamo che esistessero sul territorio. Quindi questo direi. L'ultima cosa, c'è un episodio che ricordi che secondo te è sintomatico, rappresentativo di quello che è stato questa lunga campagna elettorale che è partita, se vuoi, dalle primarie e è arrivata fino ad oggi? Io ricordo sempre come momento bellissimo, nonostante io sia da settembre che collaboro a questa campagna, l'evento del 10 maggio in Stazione Centrale è nato e si è diffuso senza un minimo di comunicazione tradizionale. È nato sul social network e quando solo tramite quel canale di comunicazione Piazza Duomo era, Duca d'Aosta era piena di oltre 20.000 persone, lì abbiamo capito che, incrociando le dita a pochi minuti dalla chiusura dei seggi, che ce la potevamo veramente fare, perché era la dimostrazione di come c'era voglia di altro, di nuovo, quella era una cosa nuova e aveva funzionato in modo perfetto. Italia in Controluce termina qui la seconda edizione, siamo su Facebook, Twitter, siamo via mail, raggiungibili a controluce@radio24.it, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.